tempesta, quell'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa, una giornata sola. Malinconia sotto la finestra, poi arresta via quando fa notte o sole se e ne scende. Stai in fronte a te.